siamo in silenzio in quei piccoli ma interminabili istanti. I nostri sguardi si unirono dimenticando le cose più importanti. Fu allora che vidi sfilare nei suoi occhi quel che avevo per la mente. Un'intesa perfetta, una sintonia mai incontrata consciamente. Ci sembrò di conoscerci da sempre, eppure nessuno di noi poteva immaginare questa complicità col senno di poi. In silenzio restai a contemplare gli occhi suoi, istanti che non dimenticherò mai. In silenzio restai ascoltando la danza del cuore, assaporando quel momento in tutto il suo splendore. A stento ricordavamo i nomi di quella nuova voce, ma c'era alchimia che ci attraversò in modo veloce, tanto da sentirci uniti e renderci complici di quella magia improvvisa, travolgente emozione nel sentire. Ma da lì tutto iniziò, una storia magica mai vissuta. E ora io non riesco a dirti no a questa situazione caduta. In silenzio restai a contemplare gli occhi suoi, istanti che non dimenticherò mai. In silenzio restai ascoltando la danza del cuore, assaporando quel momento in tutto il suo splendore. Ma ogni storia dal lieto inizio purtroppo giunge alla fine. Porterò dentro di me dolci momenti che mi laceranno come spine. Nonostante tu non te ne accorga, sebbene non te ne importi, in me vive questa storia e continuerò ad amarti. E non dimentico quel che sei stato. Andata come andata, ora avanzo senza di te. In silenzio restai a contemplare gli occhi suoi, istanti che non dimenticherò mai. In silenzio restai ascoltando la danza del cuore, assaporando quel momento in tutto il suo splendore. In silenzio restai a pensare a noi, cancellando un po' di me, seguendo i passi tuoi. In silenzio restai cercando di trovare in questo abisso la forza di risalire.